collabora con il centro. Avevamo ragionato su tutto il lavoro di Eric Colin Wright, che avevamo tradotto e pubblicato come Punto Rosso, in cui, come dire, questo filo conduttore di come oggi si può impostare un ragionamento sulla trasformazione c'entrava, no? Con quello che stavo leggendo. Allora ho proposto a Ernesto, che ci conoscevamo 30 anni prima, non so, sì, a Carrara. A Carrara, sì. Ma quindi cos'erano gli anni 80 forse, e di cui avevamo pubblicato un librettino 40 anni fa forse, sulle onde lunghe del Capitale. Io ho detto: Ernesto, ma se io lo pubblico, diciamo, nelle edizioni di carta e lo mando così anche in libreria e fa un circuito, Ernesto contento, e questo, e quindi nasce, diciamo, questa edizione con il simbolo mio, ma c'è anche l'altra edizione che è on demand e c'è anche, diciamo, online. Io non voglio fare una specie di introduzione per invogliare il libro, anche perché Ernesto scrive molto bene. In questo credo che abbia, come dire, preso il meglio dalla traduzione anglosassone, che teoricamente non sempre è il meglio, ma dal punto di vista dello stile e di come scrive e di come punta la chiarezza è qualcosa di lodevole rispetto alla tradizione cosiddetta continentale, che invece è più difficile. Devo dire che anche Riccardo fa eccezioni in questo, si occupa dei continentali ma scrive in maniera chiara, a differenza di altri che è dura. Però non lo faccio, anche perché Ernesto ha organizzato anche molto bene l'indice. Io ho fatto girare, se voi avete visto, l'introduzione a mo' di preparazione di questa serata, e i temi del libro lì sono molto ben organizzati. Mi prendo questi primi minuti per fare un discorso un po' specifico rispetto a quello che penso io, e che è anche un elemento, diciamo, critico, è anche una domanda, è anche una cosa che butto lì proprio per sentire cosa pensa Ernesto, insomma, anche a partire dal libro, no? Il libro ha un pregio, secondo me, molto, molto significativo, e che non è solo del libro di Ernesto, ma anche di altre impostazioni, che in qualche modo si muove oltre, diciamo così, sul tema della libertà e della liberazione, oltre alcuni, diciamo, elementi tradizionali anche nell'ambito marxista, per cui il ragionamento era impostato, penso che lo sappiate, diciamo sul rapporto sostanziale e formale, no? Una libertà sostanziale, quella legata ai diritti effettivi, alla condizione economica, e una libertà astratta è quella legata alle regole formali della libertà, al diritto e via dicendo. E l'altra, diciamo, dicotomia tradizionale era un po' quella tra libertà e liberazione, cioè la libertà in fondo è un concetto tendenzialmente astratto, mentre la liberazione è un processo pratico e via dicendo. Ecco, questi tipi di elementi, secondo me, non li trovate come elementi fondamentali del libro, sono accennati, ma insomma, la cosa interessante del libro è che, diciamola così, prende sul serio il tema della libertà, e il tema della liberazione come dire, non tanto come pratica della libertà, ma come processo politico che può realizzare o meno, diciamo così, la libertà. Ernesto fa un ragionamento molto interessante nel rapporto tra libertà e autonomia, magari glielo lascio, credo che poi lo riprenderà, e lo fa partendo dall'idea che la libertà il campo di opportunità del possibile e come dire, no, ci mette un pezzo della psicologia motivazionale, quindi i bisogni edonici, i bisogni eudomici, insomma il tentativo delle persone di esprimere ciò che vogliono essere dentro, come dire, un contesto che le, ovviamente li condiziona. Per di più il pregio del libro è che anche considera questo processo, diciamo così, misurabile, cioè è qualcosa che è possibile valutare, no? E quindi apre anche il campo politico, perché in qualche modo se io posso verificare se la realizzazione della libertà delle persone è in campo oppure no, questa cosa apre una discussione e rende possibile un confronto che ha anche, come dire, una possibilità di darsi ragione o darsi torto. Quindi anche questo, il libro di Ernesto sfida, diciamo così, questo elemento, incamminandosi nei sistemi di oppressione, nei movimenti di liberazione, in un'analisi molto interessante e molto articolata. Ecco, introduco qua, perché non voglio essere lungo, l'elemento che a me crea più problemi e che crea problemi in questo momento, secondo me, che una volta si sarebbe definito come il tema del soggetto, ma non è tanto così che oggi andrebbe definito, in questo modo, che anche nel libro è articolato, ma è problematico, secondo me. Cioè, diciamo che l'impostazione di Ernesto par di capire che in qualche modo è un processo, c'è un processo oggettivo di tentativo di realizzazione di questa libertà attraverso processi politici e di riscossa, di ribellione, no? Che rappresentano percorsi di liberazione, perché questa libertà è in qualche modo, come dire, no? Compressa dentro un sistema sociale che storicamente cambia e che ha varie facce dell'oppressione, e che in qualche modo chi risponde, diciamo così, a questo tipo di oppressione non è tanto importante definirlo in quanto soggetto organizzato o soggetto definito, ma risponde in qualche modo oggettivamente rispetto alla propria condizione. Io condivido questa impostazione, no? Non condivido l'impostazione per cui prima cerco un soggetto, la classe operaia, i lavoratori, oppure ipostatizzo questo soggetto e poi lo cerco nella realtà, no? Abbiamo esempi, diciamo, anche recentemente defunti, diciamo così, di un'impostazione di questo genere, per cui ipostatizzo che la moltitudine, piuttosto che la marmaglia, piuttosto che la classe, sia, come dire, presente oggettivamente nella dinamica storica, il problema è come la riconosco, o il problema è come questo soggetto che è presente si autoriconosce. Che è un modo, diciamo, più articolato, più postmoderno, potremmo dire, di porre la questione della coscienza di classe, che già Lenin aveva in qualche modo sistematizzato. Secondo me, in un modo paradossalmente più attuale oggi di quanto non lo fosse 30 anni fa. Perché dico questo? E arrivo al punto mio, anche critico. Tutto questo ragionamento, e lo si vede anche nella dinamica politica, nella dinamica, per esempio, sindacale. Io lavoro in CGIL e questo ragionamento, anche se non è assolutamente consapevole, è fortissimamente presente. Tutto questo ragionamento presuppone la capacità di rappresentare qualcuno. No? Cioè, il fatto che delle persone che abbiano in comune una condizione, quasi per una specie di processo automatico, recuperano da questa condizione un elemento comune che li fa, come dire, interagire tra loro e che li rende rappresentabili da, da un'organizzazione, da un'associazione, no? da una possibile costruzione, diciamo, politica. Questa cosa è molto europea, no? Perché come dire, è una concezione che abbiamo noi in particolare. Per esempio, gli americani hanno una concezione profondamente diversa. La libertà lì è legata tendenzialmente ad un livello assoluto e individuale, e come tale non si autorappresenta in un'organizzazione, si autorappresenta nella possibilità individuale di realizzare se stessi in una forma assoluta. Abbiamo sempre deriso questo elemento, ma è potente. Perché è potente? Perché nella libertà e nei processi di liberazione autorappresentati, magari non reali, ma autorappresentati, l'immaginario, chiamiamolo così, individuale, gioca un ruolo molto importante. Noi oggi abbiamo un'enorme difficoltà di rappresentazione dei soggetti, tant'è che tutte le organizzazioni che pretendono di fondare se stesse sulla rappresentanza sociale hanno dei problemi, e non sono problemi che sono nati solo dalla fine, diciamo così, del partito di classe, piuttosto che del sindacato di classe intesi come organizzazioni di massa, ma la forza della libertà come elemento individuale è presente, è potente. L'abbiamo visto col Covid, no? Non sto discutendo sul fatto che questo possa essere positivo o negativo, cioè possa rappresentare una realtà effettiva oppure no, possa essere mistificatorio, tutte queste cose sono possibili. Però la motivazione delle persone dal punto di vista individuale gioca potentemente sul tema della libertà. Per questo il libro è importante, gioca su questo. Noi spesso l'abbiamo sottovalutato, questo elemento. Secondo e ultimo punto legato a questo. Cos'è che gioca sulla libertà? Mi sono perso sul pezzo. Gioca sulla libertà il fatto di autorappresentarsi come qualcosa che socialmente può contare. Anche se non conti, io lo vedo tutti i giorni in rapporto con gli insegnanti. Io faccio il sindacalista della scuola, no? Le persone sono soggette continuamente a forme di restrizione della propria libertà, anche autorestrizione. Gli insegnanti sono una categoria protetta, non sono la commessa dell'esse lunga. Io ogni tanto glielo dico, perché hanno paura di intervenire addirittura in un collegio docenti, no? Perché la preside poi magari non mi dà il permesso, poi magari mi rende la vita difficile. Nonostante abbiano i diritti ancora acquisiti e nessuno li caccia via, ogni tanto gli dico, ma guarda che se lavorassi all'esse lunga è diverso, no? Ma l'immaginazione rispetto alla propria libertà e la paura, la condizione sociale negativa, pur in un campo di diritti in qualche modo protetti, sposta il discorso sulla libertà, per esempio sull'autorealizzazione personale fuori dal mondo del lavoro, fuori dall'organizzazione, e non si iscrivono al sindacato, non scioperano, no? Però cercano una realizzazione da un'altra parte, delle opportunità che avrebbero come campo della libertà, magari autoprodotte. Qual è il punto che mi interessa che butto lì? Secondo me, noi siamo arrivati ad una fase abbastanza evidente, per cui quello che diceva Giorgio Ruffolo 20 anni fa, non mi ricordo più, un libro abbastanza profetico, in cui sosteneva che il capitalismo forse non aveva più bisogno della democrazia, no? Questo è. Il capitalismo ai secoli contati, bravo, di Einaudi. Ecco. Il tema critico e insieme centrale, e con questo chiudo, se è vero questo, e secondo me è vero, cioè noi assistiamo, come dire, a un tentativo ideologico, no, di riporre la questione della democrazia come elemento politico di autoriconoscimento, ma insomma funziona fino a un certo punto, no? Biden si reinventa il mondo libero, ma insomma cioè la distinzione che c'era una volta col socialismo reale, qua voti, qua esisti, no? E là non voti, che era sostanziale, c'era quella motivazione, perché in effetti il processo politico, soprattutto in Europa, diciamo di tipo socialdemocratico, compromesso socialdemocratico, era reale, funzionava, cioè aveva difficoltà ma funzionava, le classi lavoratrici, le classi subalterne entravano nel processo politico e liberavano anche se stessi in parte, migliorando la propria condizione dentro a lotte di massa di tipo sociale, perché erano rappresentati socialmente da una battaglia politica, un'organizzazione politica, il partito di massa, il sindacato, lo sappiamo, non la faccio lunga. Sta roba qua finisce, e sta roba qua però quando finisce, e questo è il punto, il tema della libertà diventa un tema, rimane un tema fondamentale dell'autoriconoscimento delle persone, ma il sistema capitalistico e la sua trasformazione politica tende a distruggere la democrazia, cioè tende a distinguere la libertà dalla democrazia. Cioè questo è un punto, secondo me, molto critico e molto interessante. E la libertà americana, diciamola così, quella che dicevo prima, funziona in questi termini. Perché se io posso essere libero individualmente, tentare di liberarmi individualmente, realizzando me stesso, facendo soldi, piuttosto che altro, con delle simbologie molto forti, poter portare un'arma, per esempio, no? Che non è una cosa così poco importante, eh? Non è un fatto politico contingente. Gli americani mai faranno una legge che impedisce il porto d'armi libero, perché è costitutivo di quell'immaginario che dicevamo prima della libertà individuale, e hanno ragione, da quel punto di vista. Quella libertà lì prevede che sei libero anche di portare un'arma, perché il mondo è violento, io mi devo difendere, colpire, poter gestire la mia vita in quel modo. Quindi, e la protezione dello Stato, che era il concetto fondamentale della libertà socialdemocratica, è visto come un nemico, no? Totale, una cosa assolutamente che limita la libertà. Quindi la distinzione tra libertà e democrazia è possibile, e ideologicamente il tentativo è in corso in maniera profonda, più profonda a livello, diciamo, della globalizzazione, magari di questo, cioè, Riccardo su questo è ferrato, più di tentativi, chiamiamoli così, un po' antichi, però in verità sono più che antichi, postmoderni, come quello che è in corso da noi, per cui, come dire, la tua libertà corrisponde con la nazione, la rinascita del sistema, del principio nazionale, la patria, la famiglia, no? Quello che ci dice la Presidente del Consiglio è un po' questa, ti puoi realizzare realmente dentro un percorso di identità, no? Libertà e identità, il tentativo di ricostruire quel nesso, però è difficile, perché in verità ha vinto, secondo me, molto di più, ed è molto più potente quella che abbiamo chiamato la libertà americana. Quindi, come dire, chiudo con questo. In noi che speranza ci abbiamo, che abbiamo fatto per tutta la vita un altro ragionamento, no? Non funziona il ragionamento della riproposizione del compromesso socialdemocratico, cioè non funziona più l'idea che insieme, organizzandoci, difendendo la nostra libertà e soprattutto la realizzazione dei nostri bisogni in maniera collettiva, noi riusciamo a dire quello che Wright sostiene, cioè temperare il capitalismo, cioè tentare di spuntare al capitalismo le sue condizioni più selvagge. Non sta funzionando, ha funzionato per 30 anni, 40, non sta funzionando e non pare che possa funzionare in avanti, lo vedete, non è soltanto una questione del cambiamento climatico, le contraddizioni, ma, come dire, la guerra è tornata in, potentemente come strumento politico, proprio perché, non, come dire, il nesso libertà-democrazia salta, no? Quando salta quello, la guerra diventa più facile, perché diventa più facile far imperare il rapporto di forza, so come dire. Quindi, noi che speranza ci abbiamo? Chiudo con questo. Io credo che dobbiamo assumere lo scandalo della libertà, anche della libertà americana, un po', io, a me è piaciuto molto il libro di Ernesto, perché in qualche modo dà per scontato che bisogna assumere questo scandalo, cioè il fatto che la libertà c'ha, come dire, un nucleo individuale, singolare, oserei dire, che difficilmente si depotenzia con tutto il ragionamento sociale, chiamiamolo così. Però dobbiamo scommettere il fatto che questa realizzazione è maggiormente possibile o realizzabile dentro la riproposizione di una democrazia radicale, dentro una riproposizione di un processo collettivo in cui si possa condividere una condizione, e non dentro a un elemento puramente competitivo in cui io sono realizzato perché uno su mille ce la fa e io voglio essere quello lì, no? Questo è di nuovo un concetto centrale della libertà americana, no? La libertà è davvero vera perché non è di tutti, e io posso essere quello che ce la fa contro gli altri, è sottinteso ma non tanto. Cioè, la competizione, è uscito un libro 20 anni fa che si chiamava Americano, contro la competizione, era interessante, perché la competizione è connaturata alla realizzazione della libertà. Non c'è libertà senza competizione. Se la libertà è l'autoaffermazione nella scarsità di opportunità, non so come dire. Questa idea, e quindi, come dire, la domanda, e chiudo il mio intervento un po' confuso a Ernesto, è: se quel processo misurabile, tutto il ragionamento che lui fa, anche il modello libertaria, tutto quanto, come dire, c'è un problema, no? Che è il problema della, diciamo così, della possibilità della lotta politica per una democrazia radicale, perché se no non c'è, se no non si riesce. Non so come dire, se no non c'è. La libertà è oggettiva, è misurabile, è, come dice Ernesto, un processo di liberazione che si può misurare, ma rimane il nodo che questa roba qui è possibile dentro all'affermazione di una democrazia radicale, che è un problema politico. La cosa buona del libro e della questione della libertà, e con questo chiudo, il problema politico non è essenzialmente ed esclusivamente un problema di rapporti di forza, è anche un problema di immaginario sociale gigante, è un problema di autorealizzazione delle persone dentro un'identità che non è competitiva, che è collaborativa, ed è un problema di articolazione di differenze o diversità che non sono riducibili, ma nello stesso tempo non sono un ostacolo a produrre delle decisioni comuni. Io faccio anche il traduttore dei libri di Ocalan, no? Per esempio, sono molto interessanti su sta cosa. Tutto il processo del confederalismo democratico, che ha realizzato, anche se in piccola parte, però concretamente esiste in quella striscetta di terra che si chiama Rojava, nel nord della Siria, dimostra che questa democrazia radicale si può fare, con mille difficoltà, ma si può fare. Lì convivono persone che hanno immaginari sociali di identità completamente antagoniste tra loro, ma hanno trovato nella costruzione di istituzioni, e questo, con questo chiudo, te la butto lì, che non sono statuali e non sono nazionali, ma sono istituzioni sociali, il terreno comune dove queste diversità si confrontano, non si misurano uno con l'altra, ma non competono e organizzano insieme una libertà, che poi è tendenzialmente mutuata nelle sue condizioni almeno di base sulla libertà delle donne. Non a caso, perché le donne, come dire, dentro una società del livello oppressivo più potente, che secondo me è quello più potente e più antico, anche tu lo dici, che è il patriarcato, hanno la maggiore esperienza, chiamiamola genetica, non so come dire, di come la non mimesi dell'oppressione altrui ti rende possibile realizzare qualcosa. Allora, questi elementi secondo me sono molto interessanti oggi, nel libro ci sono, ma anche in altri autori, per costruire un'idea di socialismo, non so, chiamiamolo come vogliamo, di democrazia radicale, che però sia all'altezza di quelle contraddizioni della libertà che dicevo prima, che non sono superabili come facevamo una volta dicendo quella è libertà astratta, no? Quella è democrazia formale, la libertà sostanziale è legata ai bisogni. Ecco, non è così. E questo elemento della divisione o di immaginario sociale legato a un'idea di democrazia radicale è l'ultima forse speranza che abbiamo per una trasformazione progressiva, socialista, il termine non lo so, ma che almeno, come dire, risponda a una tragedia, perché noi siamo entrati in una ecatombe, non solo di chi l'ecatombe la subisce direttamente, oggi il popolo palestinese a Gaza, ma è l'ecatombe della speranza, per usare il termine di Holloway, che ha animato milioni di persone di poter cambiare il mondo. Se questa ecatombe vince, è finita. La forza avrà il sopravvento. E non c'è, e lì la libertà non c'è più, non so come dire, c'è soltanto in una formula, ma anche sempre meno. Sicuramente non c'è la liberazione e non c'è il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. L'ho fatta lunga, ma non so se sono stato chiaro. Vi passo la parola. Questa è una cosa per me molto complicata. Io conosco Ernesto Screpanti, direi quasi da sempre, nel senso che la mia prima sede universitaria è stata a Trento per 10 mesi e c'era lui come altri e siamo rimasti amici. Quindi, tra l'altro, era una situazione interessante. Facevamo degli incontri tra ricercatori, io ero assistente supplente, non eravamo ancora ricercatori, ma diciamo precari, e tra queste riunioni di autoformazione che facevamo un breve corso di 4 incontri con Mario Draghi, che stava per partire per gli Stati Uniti. E io vivevo a Torino, stavo passando dall'area Manifesto all'area Primo Maggio, quindi, per dire, un mio amico e di fatto compagno di strada, fratello maggiore, era Marcello Messori, che adesso sta da tutta un'altra parte, come peraltro anche Lapo Berti, che era in Primo Maggio, che era quello che io definirei un social liberista, dignitosissime figure. Marcello è ancora un caro amico, però, per dire, non so se Ernesto se lo ricorda, c'era anche un bravo compagno che veniva da Lotta Continua che si chiamava Sergio Fabbrini. Sergio Fabbrini apre tutte le domeniche Il Sole 24 Ore con gli editoriali sull'Europa. E chissà per quale ragione, io, se devo andare a cercare qualche cosa di sinistra, moderata, decente, devo andare alla Luis. Ogni tanto mi chiedo, ma se mi avessero chiesto di andare alla Luis, io una volta avrei detto di no con disdegno. Adesso sinceramente non so, perché sono tutti lì, e poi se guardo anche le controcopertine sono anche molto più radicali. E Gidi lì giocava la rettorite. Non gli fu concesso di fare il rettore per sempre, allora no, si trova. Sì, per molto. E quindi, vabbè, quindi buoni ricordi, ci incrociamo, ci incontriamo, interessi simili. Mi chiedono di presentare questo libro. Io dico di no a prescindere, perché sono pieno di cose. Però con Ernesto mi dispiaceva, non ho neanche aperto il libro, non ho neanche letto l'introduzione. Mi sono detto, vabbè, ho fatto un discorso stupido, cioè del tipo, cioè a Claudio Napoleoni una volta quando andò a scrivere a Paese Sera, gli dissero: ma perché scrivi per Paese Sera che è finanziato da Cossutta e dai sovietici? E lui disse: ma se hanno chiesto a me non è possibile. Più in piccolo io pensai, mi hanno chiesto di presentare il libro di Ernesto, ci sarà una ragione, sarà su Marx, sarà sul capitalismo contemporaneo, è molto più ambizioso. Però sulle prime due cose forse qualche cosa avrei potuto dire. Poi ho letto l'introduzione e mi sono spaventato, perché io su questo libro sono rigorosamente incompetente. E l'ho detto a Ernesto, ma Ernesto ha detto: ma no, eccetera, siamo messi d'accordo. E Roberto Mappelli doveva fare l'introduzione di 20 minuti e io un intervento di 15 minuti. Io ce l'ho mezz'ora? Sì. Mezz'ora perché? Perché me lo sono letto, in particolare, come promesso, bene gli abbastanza gli ultimi due capitoli e molto diagonalmente i capitoli precedenti dopo l'introduzione. E chiedo mezz'ora perché sennò quello che io dico sarà totalmente incomprensibile. Cioè, domanda: qualcuno di voi ha letto il libro? Bene, ce ne sono almeno 5. Gli altri no, però. Allora, è difficile in una presentazione, se non c'è un intervento introduttivo che ti dice di cosa parla il libro, anche mettere in piedi eventualmente un intervento critico. E il mio sarà purtroppo un intervento critico, ma da incompetente. Quindi vorrei che fosse chiaro a tutti che io non ci metto un peso dell'argomento molto pesante. È come una chiacchierata al bar. Io vi dico: queste cose non mi convincono. Ma prima di dirvi queste cose non mi convincono, vi devo dire di che cosa secondo me parla il volume. È una cosa che negli ultimi tempi un po' mi dispiace, perché su un libro di Punto Rosso mi fu chiesta di fare una recensione. Io ci ho messo 3 mesi a studiarmela, il libro. Poi con un giovane compagno abbiamo fatto questa recensione, laudativa per certi aspetti, critica per altri. Siamo stati presi a ceffoni con uno stile che chi frequenta l'economia, diciamo, non è proprio Boldrin, ma non è troppo lontano, ovviamente, da sinistra, con accuse tipo: ma questo è draghiano. In effetti, io sono stato abituato, ho studiato con Draghi, e sono stato abituato dai miei maestri ad avere enorme rispetto per gli avversari di classe. Tu sei bideniano o bideniano perché dici che il programma di 4 anni fa era molto ambizioso e sulla via giusta. Sì, non sto a dirvi che è una tesi condivisa da molti degli economisti più radicali, ma non importa. Comunque il punto era ceffoni, e in chiusura questi ceffoni avevano l'imprinting di Gheorghi Lukács, su cui però tornerò alla fine, può darsi. Vediamo il libro. Innanzitutto, chi l'ha letto ha fatto bene, chi non l'ha letto se lo deve leggere, perché è un libro scritto molto bene, perché è un libro che pone dei problemi urgenti, perché è un libro che ha una tesi forte. Ernesto vuole tradurre le lotte di classe in lotte di liberazione, dove dovrebbero giocare la classe, il genere e la natura in qualche modo. Secondo me, a dire la verità, ma questo lo dovrei dimostrare, non posso, mentre la classe forse qualche cosa a che vedere ce l'ha, i riferimenti al genere e alla natura potrebbero essere tolti senza che al libro gli si togliesse in realtà nulla. La storia, dice Ernesto Screpanti, è un processo di liberazione, cioè di espansione della libertà. Io ho la mia età, quindi io questa tesi l'avevo già incontrata, non tanto in Croce, ma in Guido De Ruggero, una bellissima storia del liberalismo. Solo che quella era proprio una filosofia della storia, lui ci credeva che si andasse in quella direzione. Ernesto Screpanti no, lui non ha una filosofia della storia, non ha assiomi antropologici, non parla di natura umana, parla di bisogni degli individui, l'individuo e l'individualismo sono cruciali nel libro, nella prospettiva di Screpanti, fondati sulla ricerca empirica, in particolare la ricerca empirica in psicologia. C'è tutta una lunga tassonomia di bisogni, il bisogno più rilevante è il bisogno di autonomia, dove il punto è espandere la possibilità di scelta di un soggetto che prende decisioni consapevolmente e volontariamente, attraverso a un certo punto un'azione collettiva. Anche qui ci sono tante tassonomie, è stato detto che Ernesto usa bene una modalità analitica che io apprezzo, devo dire, e non, mi sento continentale fino a un certo punto. Io cerco sempre la posizione numero 3. Se mi dice analitici o continentali, boh, qualcos'altro. L'azione collettiva deve partire da qualche parte, parte dalla trasformazione della frustrazione, della depressione in movimento per la liberazione. Superando il senso di impotenza, il senso di colpa, questo ha a che vedere un po' con le cose che ha detto Roberto Mappelli, e facendo cosa? Facendo una cosa molto semplice, che è il comunismo o socialismo, nella versione di Ernesto Screpanti, ora qui, data la tecnologia disponibile, c'è tutto. Ci sono gli individui, c'è la tecnologia, manca solo l'azione rivoluzionaria. Prima di andare avanti, io in genere amo dire il cognome perché non mi piace quando si fanno i riferimenti nei dibattiti, però qui per comodità dirò Ernesto e la chiudiamo lì. Io e Ernesto abbiamo, o meglio Ernesto e io abbiamo molte cose in comune. Non abbiamo simpatia per il socialismo o comunismo realizzato, non solo per la socialdemocrazia. Abbiamo una posizione di comunismo libertario. Lui dice adesso non c'è bisogno degli aggettivi. No, c'è bisogno. Comunismo libertario, almeno per me. Io non ho nemmeno problemi a dire che io sono liberal comunista. E forse, ma questo magari è una discussione, liberale forse salterà fuori in un senso più forte di Ernesto, non è una critica. Io ho studiato con Norberto Bobbio e ho imparato molto da Norberto Bobbio. Io per fortuna no. Esatto. E io i miei maestri amo criticarli, però amo imparare. E allora il punto è, giustamente da parte di Ernesto, dare carne al progetto politico e alla sostanza economica sociale. Quindi ci sono questi ultimi due capitoli, che cercano di inverare una rivoluzione, non nel senso machiavelliano, ma nel senso gramsciano, cioè non Lenin, non quella russa, un pessimismo sulla natura umana per cui ci vuole una minoranza di rivoluzionari di professione che instaura il dispotismo della libertà, ma uno schema gramsciano: le masse sono state conquistate al pensiero socialista e all'ideale della liberazione. Se le cose stanno così, si può appunto costruire la struttura politica e ragionare di quella economica. Il tutto, come lui sottolinea sempre, a partire da una particolare visione che non è scritta nella pietra, ma di cui lui è convinto, sull'essere umano. Diciamo che Ernesto è quello del bicchiere non mezzo pieno, tre quarti pieno, quasi pieno. Io sono quello del bicchiere mezzo vuoto, o peggio, sono Voltaire che scrive a Rousseau: oh, ho ricevuto il tuo, non manuale, ma il tuo libretto sull'essere umano, la liberazione dell'essere umano, eccetera. Mi spiace non poter gattonare per tornare a questo stato naturale. Quindi va, Ernesto è convinto del suo essere umano. Io vivo dopo i grandi maestri del sospetto, non solo Marx, anche Freud, anche altri, sono un po' più pessimista. La più importante, allora, c'è la democrazia e c'è il progetto politico. Il progetto politico, sarò veloce, si basa su un tentativo di mettere insieme democrazia diretta e la cosiddetta democrazia delegata, rappresentativa, con varie formalità. Su molte cose, anche quelle che criticherò tra virgolette, io sono d'accordo sulla linea di direzione. Devo dire che forse si dà troppo spazio alla democrazia diretta, perché la famosa comune non era una democrazia diretta, era una forma di democrazia delegata, e con dei limiti, e avere una democrazia partecipativa, ma soprattutto una democrazia rappresentativa, aiuterebbe. Però la democrazia rappresentativa, qui il nodo bobbio è rilevante, per cui io purtroppo sono messo male, mentre lui è messo bene. Ernesto è molto sicuro di sé. Bisogna avere una dittatura della maggioranza. Tutti quelli che dicono che bisogna tutelare delle minoranze sono dei vecchi tromboni che in realtà sono spaventati del fatto, potrei prendere le citazioni, che sono spaventati che si vota e questi individui votano per l'esproprio e sono terrorizzati, i filosofi addirittura con la puzza sotto il naso. Questo è un po', come dire, è molto anglosassone forse anche questo, ma fino a un certo punto, cioè Ernesto scrive in cui ci sono le sue tesi e le tesi che critica, che invariabilmente vengono qualificate in modi che io non utilizzerei nei confronti del peggior nemico. L'economia, diciamo la struttura economico-sociale, è fondata sulle cooperative. Apriamo una parentesi, un pezzo che sembra importante, poi magari mi sbaglio, nel suo ottimismo, è che il mondo dei social, il mondo di internet, è una cosa meravigliosa. Certo, c'ha i suoi rischi, ma in realtà potrei prendere un sacco di frasi. È un elemento che rende possibile il vero, la vera democrazia e l'autentico socialismo. Maggiore il tempo che gli individui passano a navigare e migliore è la qualità dei loro discorsi politici. Cooperative. Le cooperative sono cruciali perché nelle cooperative il potere decisionale spetta ai lavoratori attraverso tutta una serie di scaglioni. Non posso entrare nel merito di quella che è una sofisticata in senso positivo procedura di costituzionalizzazione dei diritti, del potere, della società da parte di Ernesto. Una volta che tu hai le vere cooperative, perché qui tutto è vero, la democrazia, c'è un'autogestione che attribuisce il potere decisionale non più ai capitalisti, i manager hanno sostanzialmente un ruolo tecnico, si possono soddisfare i bisogni eudemonici, autonomia, creatività e socialità, e sfruttando l'efficienza anche dei mercati e così via, i bisogni edonici, benessere e sicurezza. Queste cooperative stanno nel mercato in concorrenza. In un'economia monetaria della moneta non si parla molto, o del denaro, però questo è. Dice, ma il criterio del comunismo di Marx, a ciascuno secondo le sue capacità, da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Ernesto, molto giustamente, è sempre molto critico di Marx. Questa è un'altra delle cose che lui e io abbiamo in comune, cioè non prendere Marx per oro colato, se possibile lo critichi. Prima cosa da fare, dubitare di Marx. Anzi, siamo in tre che la pensiamo così. Lui, io e Karl Marx. Quando le figlie gli hanno dato quello che si chiamava il questionario di Proust, ma Proust non c'era ancora, non lo so, in cui c'era tutta una serie di cose, l'ha fatto lui, l'ha fatto Engels, qual è la qualità migliore secondo te in un uomo, qual è la qualità migliore in una donna, eccetera. Voi leggete le risposte di Engels, molto simpatiche, leggete le risposte di Marx, un po' scontate, dell'uomo la forza, della donna la gentilezza, debolezza, eccetera, eccetera. Però alcune sono molto simpatiche, motto che preferisci, cita Cartesio, dubita di tutto. Se dubiti di tutto, dubiti anche di te stesso. Quindi io non ho problemi da questo punto di vista. Non per niente lui disse che non sono marxista. Esattamente, io infatti, io continuo a dire, tutti dicono, ah non è possibile, che io non sono marxista, sono marxiano, perché essere marxiani oggi, questo è anche un punto di contatto metodologico, per me significa quello che farebbe Marx oggi. E Marx cosa ha fatto nella sua vita? Ha criticato la teoria sociale del suo tempo, che non è più oggi quella del suo tempo, quindi dovrai pur lavorare per farla tu oggi. Secondo, criticare il capitalismo del suo tempo. Il capitale non è una Bibbia, quindi non è una verità che tu possa semplicemente applicare. Quindi quando io riporto critiche o deviazioni di Ernesto rispetto a quello a cui siamo abituati, non prendetelo automaticamente per una critica. Un problema però lo è, perché per Marx è utopistico, ma non nel senso buono, peggio, no? È una stupidaggine, diciamolo Ernesto Screpanti, è una boiata, è una puttanata quella di pensare che delle relazioni economiche rette dalla concorrenza fossero anche le cooperative, non degenereranno, e che il lavoro, che non è immediatamente sociale, perché se tu sei sul mercato e quel lavoro lì di quelle imprese non è immediatamente sociale, non si trasformi in una moneta, in una qualche forma di comando, dominio impersonale, cosa da cui Ernesto rifugge. Sapete quando c'è il diavolo, no? L'esorcismo. Lui fa proprio quella cosa lì, fa degli esorcismi potentissimi. Se le cose stanno in questo modo, queste imprese sono lì in concorrenza e sfruttano tutta una serie di c'è un problema però, che tipo di concorrenza? Nel capitalismo la concorrenza è monopolistica, diciamo oligopolistica, con forte... No, nella società di Ernesto c'è un bel antitrust e ci sono tante politiche che vogliono approssimare la concorrenza perfetta. E sul terreno della distribuzione vi ho già detto, cioè da ciascuno secondo le sue capacità, da ciascuno secondo i suoi bisogni, bello, bello, bello, irraggiungibile. No, no, non è irraggiungibile. Se ci pensate bene è stato già raggiunto, è il welfare, poi ce lo tolgono, ma è quello, tassazione progressiva, più welfare, quella cosa lì è. E così dice Ernesto. Una cosa che noi abbiamo in comune, che discende dal fatto che non ci sta simpatico il comunismo realizzato, il socialismo realizzato, ma dunque neanche il PC. Io vi ho detto che ero dell'area Manifesto. Io sono dell'area Manifesto perché il Manifesto era fuori dal PC. Io non sarei mai stato del partito. No, non è un insulto, per tanto rispetto, ma proprio non ci sarei mai... entrato. Da lì deriva sia per lui che per me il fatto che per noi la pianificazione centralizzata non è una gran cosa e non ha mai veramente funzionato ancora oggi, perché poi uno si dimentica dopo 20-30 anni cosa riciccia il comunismo come proprietà pubblica e pianificazione il più possibile centralizzata. Sia lui che io pensiamo tutte le cose che sono puttanata, boiata, giovani tromboni, perché in questo caso spesso sono giovani che non capiscono una mazza. E allora cosa ci mettiamo al suo posto? Beh, certo, lo Stato non scompare, ci va uno Stato messo a fare quello che deve fare, ridurre l'incertezza, perché diciamolo, Hayek aveva ragione contro la pianificazione centralizzata, anche Mises secondo me aveva ragione. Io dopo primo maggio mi sono rincontrato con Sergio Bologna a fare altre ragioni, ho scritto un bel pezzetto su cui ho anche un carteggio con Norberto Bobbio, non t'arrabbiare. Era il 1990, uscito nel 91, quindi l'anno era proprio quello bello giusto per discutere di queste cose qui. Sapete come sono queste cose anche dei giovani, di movimento, eccetera. Sul computer non si sa cosa è successo, le note sono saltate e in una notte le hanno riscritte. Come le hanno riscritte non si sa, però è uno dei miei pezzi che ha girato anche in Germania, anche altrove. E però, quindi io sono d'accordo con lui, tra Mises, Hayek e Lange, cioè la difesa della pianificazione centralizzata, avevano ragione gli altri. Lui dice però c'è un'incertezza macroeconomica, arriva lo Stato, e lo Stato cosa fa? Una bella lista di cose, no? Che sono la politica della domanda, la politica fiscale, la politica monetaria, la politica sociale, una politica industriale e così via. Se ci pensate bene, ma un po' lo dice anche lui, anche questa cosa qui c'era già. Io ho un sacco di amici in Rifondazione Comunista negli anni 90 e negli anni 2000, i quali hanno continuato a dire, ma in fondo c'è, cioè, uno proprio diceva che era lo Stato come... fase comunista dopo il mercato e così via. Io sono della generazione di Ernesto e io so che quello Stato, non quello dopo, quello Stato è quello che è caduto largamente, perché i soggetti, quelli piccoli, non volevano quella roba lì, e quello era uno Stato che non a caso si fondava sui finanziamenti e così, cioè tutte le cose buone sono state accoppiate ad una realtà molto discutibile, tant'è che il buon Minsky nel 1975 dice: ma questo keynesismo, quello lì ha determinato distruzione sociale e ambientale e va superato con una socializzazione degli investimenti, e non una socializzazione degli investimenti alla Keynes, che è una cosetta, è proprio una determinazione della composizione della produzione. E quindi in fondo secondo me quel Minsky è un pochettino più radicale di quello che scrive Ernesto in questo libro. E se volete la mia opinione, questo mi avvicina alla parte più alternativa, questa è una ricostruzione in parte critica, io ho una visione un po' diversa da quella di Ernesto. Sulla pianificazione c'è la posizione dei difensori della pianificazione centralizzata, questo Oscar Lange per dirne una, dall'altro gli austriaci, Mises e Hayek. Hayek è ovviamente molto meglio rispetto a Mises, l'informazione è diffusa, lo Stato non può pensare di sapere tutto, eccetera. Allora, perché è stato meglio il mercato? Ma perché il mercato diffondeva a suo modo l'informazione locale dove era significativa, tacita, questo, quello. Io penso che non avesse ragione nessuno dei due. Il mercato funzionava per le ragioni e l'innovazione che ha detto uno che si chiamava Schumpeter. Schumpeter ha detto: caspita, c'è un forte elemento di centralizzazione che è dato dal sistema bancario. Senza quello, gli imprenditori innovatori che rompono l'equilibrio creando monopolio temporaneo non ce la farebbero e vivremmo nel mondo di Hayek, che è un mondo in cui l'innovazione davvero non c'è, c'è l'innovazione incrementale. D'altra parte, se io mi sposto dal lato comunismo, io credo che il punto sia il conflitto. In Marx l'idea è che il capitale, o i capitalisti se preferite, si acquista i lavoratori, che io preferirei dire portatori viventi di forza lavoro, la forma dell'impresa qui è irrilevante se sei in un'economia monetaria e se sei in un'economia soggetta al vincolo esterno della concorrenza. L'elemento dinamico è che il capitale non riesce mai, o i capitalisti, a controllare con i suoi contratti questi soggetti. Lo deve fare, se no come capitale non esiste, ma è una lotta perenne. Togli la concorrenza, ma togli anche questo conflitto, che non è primariamente nella distribuzione, ma è nella produzione, tu non hai il capitalismo come luogo dinamico, ma non hai neanche, per me, una società democratica. Il problema del socialismo realizzato non è solo la pianificazione centralizzata, è l'abolizione del conflitto. Qualcuno direbbe: con la stretta di mano implicita tu lavori di meno. Questo è il punto. Allora io mi trovo l'utopia, così la definisce lui, di Ernesto, e mi trovo un mondo strano. Io giro, ho girato tanti gruppi di economisti, filosofi, marxisti, eccetera. anche i più brillanti a un certo punto si mettono a parlare di socialismo e di comunismo. Anche quelli che amo di più, a quel punto io o mi addormento o comincio ad avere grossi problemi, perché è una società armonica. La società di Ernesto è una società con imprese private in concorrenza, autonome ma in realtà controllate dalla concorrenza, e senza conflitto. Anzi, se c'è qualcuno che vuole andare contro o deviando, vabbè, ma lui è preda di vecchi tromboni, solo che magari qui il vecchio trombone si chiama Karl Marx. Chiudo. Allora, dietro tutto questo c'è una questione metodologica. Ernesto Screpanti, esattamente come Norberto Bobbio e i Bobbiani, pensa per dicotomie. Aspetta che lo tengo. C'è l'individualismo e c'è una cosa che Ernesto chiama olismo e che secondo me più correttamente Bobbio chiamava organicismo. C'è un soggettone che si mangia tutto e questo tutto sono le varie parti. Il suo individualismo è un po' più sofisticato, è un individualismo istituzionale che tiene conto dei possibili, diciamo così, sviluppi e vincoli che vengono dalle interazioni sociali. Ma il problema è sempre la microfondazione negli individui. Allora, quello che io dico da qui in poi, di nuovo, come tutto quello che ho detto, ma ancora di più, non ha nessuna imperatività. A me Marx sta simpatico, ma magari ha detto una massa di fesserie. Però Marx non lo puoi prendere senza la tesi che la merce, il denaro e il capitale sono feticci. Feticci che hanno un potere sociale. Non ho detto che sono feticci che per errore gli si attribuisce un potere sociale. No, no, quel potere sociale ce lo hanno come cose addirittura. Una cosa è il carattere di feticcio, che se volete dell'intero, se lo vogliamo fare incazzare ancora di più, dell'uno. Un'altra cosa è il feticismo, pensare che quel potere sociale le cose ce l'abbiano, da un lato fuori dalle relazioni, ma soprattutto che quel potere sociale ce l'abbiano in quanto cose naturali. No, ce l'hanno in quanto cose in quella relazione sociale. Allora Marx ha un'analisi sofisticata in cui ti spiega come origina il feticcio da una relazione, c'è un primato della relazione. Tu non puoi sganciare nessun individuo da quella relazione. Le azioni sono degli individui, ma dentro relazioni costruite. Questo vale per Marx, ma per altri versi vale anche per Freud. Cioè, io sono della parte del Novecento che ha il primato delle relazioni. Questo significa essere organicisti? Essere olisti in senso forte? No, significa dire che a un certo punto della storia, diciamo della modernità probabilmente direbbe Lukács, si costituisce un nuovo essere umano, perché l'individuo si evolve nel tempo, e quindi progressivamente un primato della relazione, ma poi in questa società questa relazione assume caratteri di mistificanti, nel senso che è la realtà ad essere mistificante. L'idea di Ernesto è che se tu chiarifichi, e lui è ottimista, è quello dei tre quarti, ma la gente si libera da questa falsa coscienza. Io penso che invece si debbano creare le condizioni per questa liberazione. E francamente io distinguerei l'emancipazione dalla liberazione. Secondo me, anche se non è vero al 100%, quello di cui parla Ernesto è l'emancipazione nel senso letterale, lo schiavo che si libera da una relazione personale. Ma per Ernesto questo è anche oggi. Allora, tu esci da quella relazione di subalternità. La liberazione di cui noi stiamo parlando è una liberazione dal dominio impersonale che si traduce in sfruttamento dei soggetti con la S minuscola. La concorrenza è un dominio impersonale, lo sfruttamento dei lavori dei lavoratori, dei portatori viventi di forza lavoro è un dominio impersonale da cui qualcuno guadagna e qualcuno ci perde, ma anche quello che guadagna non ha possibilità di scappare da questo meccanismo se non se ne creano le condizioni. Il problema di Marx è ricostruire come questo meccanismo si riproduce. Uscirne non è facile. Allora, ci sono dei problemi, ma sì, ci sono enormi problemi. Ma per me i problemi veri non sono quelli, e su questo tendo a chiudere, su cui ci si è concentrata l'attenzione. Sono un problema politico, diciamo, e un problema sociale. Il Marx migliore la pensava, non a caso come ve l'ho raccontato io, ma quel Marx lì, il Marx migliore, non può non sapere che non fai la rivoluzione avendo un soggetto, che sia il partito, che sia l'operaio massa, no? Perché, usando una frase che gli piaceva, i dadi sono truccati. Il problema sociale è che però almeno Marx aveva qualche cosa che ci aveva lasciato in eredità, e questo qualche cosa consentiva o consentirebbe almeno di tenere aperto il problema. A me basta tenere aperto il problema. Non so se l'avete capito, io alla società di Ernesto preferisco un bel capitalismo con un conflitto sociale forte, alla Sabattini, se vogliamo metterla in questo modo. Mi sento molto più sicuro, perché non voglio che poi uno mi dica dopo 100 anni o dopo 50 anni vabbè, ci ho provato, ma scusa, ho sbagliato, era una mia ipotesi, credevo che le ricerche empiriche mi dicessero quello, ma non ha funzionato. Marx era convinto che questo meccanismo tremendo, al tipo Frankenstein, fosse tale che tu lì dentro, come dire, ti socializzavi dentro la produzione. Il capitale non può produrre se non passa dai lavoratori individuali ai lavoratori in relazione. Non si produce più da soli, si produce in relazione. E in quanto tali, tutti i poteri sociali di questi lavoratori individuali passano al capitale e sono del capitale, e voglio essere provocatorio, sono giustamente del capitale. Non è che c'è qualche autonomo eroe morto qualche giorno fa che viene e mi dice: ah no, ma quella è la cooperazione originaria, eccetera. No, la cooperazione la mette, la attiva il capitale. Però Marx pensava che per far questo li doveva mettere in relazione i lavoratori, e i lavoratori potevano, attraverso una mediazione politica e sindacale e sociale, che è da costruire sempre, ogni volta di nuovo, i lavoratori potevano rompere le scatole e cominciare a pensare a qualche cosa di diverso. Le tecnologie che adesso, secondo Ernesto, ci consentono il comunismo domani mattina consentono una cosa che Marx non si immaginava proprio. Consentono di mettere insieme i lavoratori tecnicamente, tenendoli divisi socialmente. Vi prendete tutti i film di Ken Loach, a partire da Mick Paul, e la storia è questa. La storia è questa. Disperante, dice. No, perché ci sono i veri comunisti e i veri socialisti. Dove stanno? Al Financial Times. Nel 2016, Sarah O'Connor, che ha lo stesso nome di quella di Terminator, ma non è di Terminator, ha fatto un lungo articolo sulla nuova organizzazione del lavoro, il taylorismo estremo, in luoghi come si chiama, le auto, i taxi, Uber, Deliveroo, eccetera, ed è un'organizzazione di questo tipo. Allora, a un certo punto, i lavoratori lì dentro hanno voluto qualcuno far conflitto. Ma come faceva? Perché erano separati. Sono diventati clienti di se stessi. Quindi i lavoratori andavano da altri lavoratori e gli spiegavano che erano in sciopero per far riconoscere il loro diritto come lavoratori autenticamente dipendenti. È cominciata una serie di processi, la storia è arrivata anche in Italia, e hanno vinto. Io non vi sto scrivendo un progetto o un'utopia, io sto ragionando in un modo autenticamente luxemburghiano, ovvero tu non sai dove il conflitto parte, ci devi essere dentro. Il conflitto non è spontaneo che ti risolve tutto quanto, perché queste cose qui tendono a degenerare, ci va organizzazione, ma tu devi essere dentro e devi passare da una contraddizione all'altra. Ecco, questo io purtroppo ho 70 anni, io so che non vedrò nessun happy ending, non so neanche se ci sarà, francamente non mi interessa di meno. Non me ne può interessare di meno, cioè, dal punto di vista individuale. Io spero che succeda, ma io spero nella lotta per la liberazione, che non è lotta dai capitalisti sfruttatori come individui, ma dal meccanismo impersonale che sfrutta gli esseri umani in carne ed ossa. Questo è un grande problema, perché nel marxismo di oggi c'è chi insiste sullo sfruttamento e c'è chi insiste sul dominio impersonale come se fossero due cose diverse. Per me sono alla fine la stessa cosa, ma se tu non hai un metodo olista che parte dal riconoscere che è come se esistesse lo spirito di Hegel nella realtà, attenzione al come se, oppure tu del capitalismo non riesci a capire niente, assolutamente niente. Gli hegeliani dicono: ma Marx non ha capito una mazza di Hegel, no? Bisognerebbe ricostruire Marx veramente come l'Hegel vero. Lasciatemi dire, probabilmente hanno ragione. Marx, quell'Hegel, se l'è inventato. Il problema è che secondo me non si capisce niente della realtà capitalistica senza quel falso Hegel. Sì, quell'Hegel che Marx riprende citandolo implicitamente e peraltro in modo sbagliato quando dice: è come se c'è la pera, c'è la mela, ma in realtà sopra la pera e la mela c'è davvero il frutto. Quel Marx che dice c'è il diritto romano, c'è il diritto tedesco, ma in realtà sono incarnazioni del diritto, il diritto. E lui stesso dice, chiunque dice la prima cosa, ci sono le mele e le pere, sa che dire che queste sono incarnazioni del frutto è una boiata pazzesca. Però quel Marx dice, la boiata pazzesca è esattamente la realtà del capitalismo. Noi non avremmo il progresso sociale, economico che abbiamo avuto in quella forma se non di qui. Allora, il mio problema con Ernesto è che secondo me lui queste cose qui le butta via con troppa facilità. Grazie Riccardo. Prima di dare la parola a Ernesto, se non l'avete già fatto, se l'avete fatto, rifatelo. Dopo questa discussione, se andate a vedere Povere Creature, che è un capolavoro certo. assoluto, tutte queste robe sono dentro quel film lì, questo regista greco, compagno, è un grande. Lasciatemi solo dire una cosa soltanto perché l'avevo anticipata. Nella risposta degli autori del volume sull'inflazione edita da Punto Rosso, i compagni chiudono con una citazione da Gheorghe Lukács. E io dicendo le cose che vi ho detto, mi sono detto, caspita, ci sono cascato di nuovo. Perché la citazione di Lukács dice, il marxismo è contro le discussioni astratte, vuole sempre il concreto. Solo che io sono pignolo e mi sono andato a guardare da dove veniva la citazione. Ho trovato che era stata pubblicata in un libro ristampato da Punto Rosso, ho scoperto che quella citazione veniva da un'intervista del 66 a un giornale francese, dove Lukács se la prendeva con Sartre, ma discuteva della libertà, questo interesserà a Ernesto, e diceva, guardate, non mi fregate, voi volete, adesso esagero un po', volete farmi dire che da voi c'è la libertà, certo. e invece da noi, che lui c'è sistema burocratico, no, ma quando mai? Siamo più o meno lì, un po' di più, un po' di meno, ma è la stessa cosa. Quindi, Gheorghe Lukács, che è il filosofo, uno dei filosofi, il primo forse, che ci ha aiutato a riscoprire la dimensione dell'astratto, lì stava difendendo, con un certo imbarazzo, il socialismo reale che lo teneva chiuso in casa e lo controllava quotidianamente. Perché right or wrong my part. Se c'era una persona che aveva la possibilità di essere libero come mente, forse era lui. Per farvi capire come è elastico il concetto di libertà. Anche uno stalinista aveva una filosofia della libertà, perché Lukács era questo. Comunque no, volevo dire, se tutti i critici fossero così, evviva la critica, cioè, sono molto contento che lui abbia fatto questo intervento. Tra l'altro sono stato io a suggerire di invitare proprio Riccardo Bellofiore. Ti vuoi male? Lui non me lo perdona, io invece gli perdono tutto perché ha detto un sacco di cose interessanti. E la prima parte delle sue critiche le condivido. La seconda parte un po' meno, però adesso non voglio aprire un dibattito. Spero che gli interventi di Roberto e di Riccardo siano almeno serviti a stimolarvi, a indurvi a comprare il libro e a leggerlo. Questo lo scopo era questo. Quindi non voglio aprire un dibattito, voglio soltanto però fare due cose. Prima puntualizzare due cose su cui non sono d'accordo con Riccardo. Lo devo dire perché... Dixit e salvavi anima mea. Dopodiché voglio dire una cosa sul libro che mi sembra importante. Cioè, non sono d'accordo, assolutamente non sono d'accordo sulla visione schumpeteriana del monopolio come fattore di sviluppo dell'innovazione. Anzi, io penso che oggi, soprattutto con tutta la legislazione sui diritti di proprietà intellettuale, il monopolio è un disastro, una cosa che soffoca l'innovazione e la usa come strumento di sfruttamento. Punto. La seconda cosa, olismo, individualismo. La mia impostazione è individualista, lui l'ha detto. È più vicino. Ed è basata su un individualismo ontologico, nel senso che l'ente che agisce, il soggetto, è innanzitutto un individuo. Poi può agire in gruppi, in classi, in aggregati, ma le motivazioni vengono dall'individuo. Questo è un individualismo ontologico e su questo credo che siamo abbastanza... Ma c'è anche un individualismo metodologico che secondo me è una discriminante fondamentale tra materialismo e scienza da una parte e idealismo e filosofia dall'altra. Cosa voglio dire? Lui ha elencato una serie di concetti che sono presenti in Marx e che lui ritiene importanti, fondamentali, che invece sono proprio le cose che io rifiuto di Marx. Questo bisogna dirlo esplicitamente. Concetti, e su questo non siamo d'accordo assolutamente. La prima parte delle tue critiche le condivido, la seconda parte no. Allora, il feticismo delle merci, il dominio impersonale, il capitale, non i capitalisti, non le imprese, non gli investimenti, no, il capitale come soggetto, la forma valore, beh, tutte queste cose, se lo posso dire in termini analitici, sono cazzate. Volevo intervenire o dirlo, in tua difesa, mi stai convincendo che ha ragione lui. Vabbè, no, posso benissimo aver torto io, però avendo studiato Marx in modo abbastanza approfondito, vi posso dire che c'è una parte di Marx che va assolutamente rifiutata e che è la sua eredità hegeliana, anche se lui l'ha capito male, ma Hegel, sì. Però c'è una componente hegeliana che è fatta di metafisicherie hegeliane che in Marx sono presenti e di cui noi dobbiamo liberarci. Quindi su questa cosa qua non siamo assolutamente d'accordo. Valorizza lei che il metafisico, questo sì, sì. Dice, è una merda, se posso dire. Sì, questa è la ragione, come diceva Colletti, per rovesciare sì. Il capitalismo. Vabbè, comunque, questa è una semplice puntualizzazione, non voglio aprire un dibattito perché non è neanche il luogo. Ripeto, spero che i due interventi vi inducano a leggere il libro. Tra l'altro, chi non vuole comprare può avere il PDF gratis. Però non lo dovevi dire questo. Gli faccio concorrenza, vabbè. No, questo non va detto. Perché no, aiuto. Sì. No. Perché ho pubblicato questo libro con la clausola, con una clausola di Creative di Commons. A quindi proposito no. Di feticismo, quello che io so, cioè, lo devi comprare. L'ho pubblicato come Creative Commons, quindi non ho royalties, diritti d'autore, eccetera, eccetera. Chiunque può prendere il PDF, scaricarlo e ridistribuirlo e fare quello che vuole. Addirittura uno lo può anche prendere e pubblicarlo, come ha fatto lui, vendendolo a un prezzo. Quindi, perché ho fatto questo? Primo perché io ritengo che ormai tra le cose positive di Internet c'è questa qua. Cioè la possibilità di superare una serie di intermediazioni costruite dal capitale, adesso proprio lo uso in termini olistici, che si intromette tra l'autore e il fruitore per fare profitti. Beh, questa cosa qua può essere superata e la conseguenza è che un numero molto più elevato di persone può usufruire del prodotto della ricerca e dell'attività intellettuale. Per farvi soltanto un esempio, io diversi anni fa pubblicai un libro intitolato Comunismo Libertario con una delle maggiori case editrici inglesi che pubblicò la prima edizione a 120 sterline, un libro di 180 pagine. Cioè, un affitto. Sono passati 5 anni, poi dopo è passato all'edizione paperback in 60 sterline, ma insomma, lo stiamo scherzando. Quindi, però non c'è il prezzo imposto. No, gli autori però, devi venderlo anche a 20. Molti lettori hanno dovuto fare ricorso alla pirateria, adesso il libro si trova in PDF piratato. Allora, scusa, allora mi sono fatto furbo, un altro libro specialistico, l'ho pubblicato con una casa editrice inglese che pubblica in Creative Commons, è forse la più importante che c'è nel mondo, con la clausola più estesa possibile. Però li devi pagare, giusto? No. Non neanche fondi di università? No, se vuoi dare un contributo glielo dai, però non è obbligato. Ah. Non sei obbligato a farlo, si chiama Open Book Publishers di Cambridge. In 3 mesi è stato scaricato da 5.000 persone. Questo per dirvi che cosa vuol dire pubblicare usando internet o usando il sistema tradizionale. Ora non voglio criticare perché... Tu lo sai che scaricare non è leggere. Ovviamente. Tu lo sai che negli anni 80... Ma neanche comprare il libro. Cassette. Ma neanche comprare il libro vuol dire leggere. Uno lo compra e lo tiene là. Comunque, vabbè. Chiuso anche questo argomento. No, comunque è un gran successo. No, no. Volevo Allora, no, invece voglio dire, voglio concentrarmi su una cosa importante dal punto di vista teorico per capire il senso di questo libro, la cosa che secondo me è forse la più importante di tutti, e cioè la definizione dei bisogni umani. Ora, io sono un economista, ahimè, come lui, e in economia, chi sa, chi conosce un po' di economia, sa che la psicologia assunta dagli economisti è di una banalità, di una trivialità fuori dal comune. L'uomo economico è un soggetto animale. Forse gli animali sono più perfetti uomini economici. Sono più critici, sì. Sappiamo che il mondo non è così, che gli esseri umani non sono così. Ebbene, io mi sono avvalso della ricerca empirica in un settore di ricerca nella psicologia della motivazione, psicologi come Maslow o Deasy o Ryan e altra gente di questo tipo qua, che appunto sulla base di ricerca empirica, clinica o anche ricerca nelle fabbriche di economia del lavoro, hanno accertato che l'essere umano ha una struttura dei bisogni molto, ma molto più complessa di quella ipotizzata dagli economisti utilitaristi. Lui li ha accennati. Ci sono due tipi di bisogni, edonici e eudemonici. Eudonici sono quelli economici, quindi avere un reddito, avere una casa, avere una pensione, quindi benessere e sicurezza. E sono quelli su cui si è concentrata la quasi totalità dell'economia, compreso Marx, anche se Marx però aveva un'idea dei bisogni eudemonici. Bisogni eudemonici sono quelli che potremmo definire spirituali, cioè sono sostanzialmente tre: bisogno di autonomia, cioè l'individuo ha bisogno di sentirsi l'autore delle proprie decisioni, delle proprie scelte, non sopporta di sottostare ad un'autorità, anche se è costretto a farlo. Il lavoratore che sta autore in fabbrica è costretto a obbedire, però quel tipo di lavoro e quel tipo di attività non soddisfa un suo bisogno fondamentale. Quel bisogno è frustrato. Il secondo è bisogno di autorealizzazione, cioè l'individuo ha bisogno di esprimere la propria personalità, la propria creatività nelle cose che fa. Quindi un artista lo fa, un artigiano lo fa, un lavoratore alla catena di montaggio non può farlo. Terzo bisogno è bisogno di socialità. Abbiamo bisogno di agire, di operare, di vivere insieme agli altri. Ripeto, queste non sono presupposizioni filosofiche, sono il risultato di ricerca empirica. In una fabbrica questo bisogno non è soddisfatto perché i rapporti sociali sono basati sulla gerarchia, sul potere, sono imposti e quindi l'individuo non riesce ad esprimere se stesso. Già questo fatto è una base critica fondamentale del capitalismo. Vuol dire che il capitalismo impedisce agli esseri umani di soddisfare i suoi bisogni eudemonici fondamentali. Perché è importante questa cosa? Perché sulla base di questa definizione della natura umana io sviluppo un modello di democrazia e un modello di economia. Voi dite, ma che c'entra questo? Che rapporto c'è tra i bisogni fondamentali e l'organizzazione sociale ed economica? È invece fondamentale perché la democrazia è definita come un sistema in cui tutti gli individui, cioè in quanto cittadini, sono in grado di decidere autonomamente. Cioè, le scelte pubbliche le fanno gli individui in quanto soggetti autonomi. Quindi la democrazia è importante per questo, perché consente agli individui di soddisfare il bisogno di autonomia nelle scelte pubbliche. Di qui l'importanza, nei limiti del possibile, della democrazia diretta, ma quando non è possibile, quindi nella stragrande maggioranza dei casi, di una democrazia rappresentativa che funzioni veramente come un sistema in cui i rappresentanti sono mandatari dei cittadini. Quindi, ora non voglio descrivere tutto il sistema democratico che ho ricostruito, però voglio chiarire che la motivazione della democrazia è questa: serve per consentire agli individui di soddisfare il proprio bisogno di autonomia. Per quanto riguarda Guardate, anche su questo Marx ha avuto delle idee estremamente avanzate, ancora in gioventù, nella critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Lui critica il sistema democratico, anche la visione hegeliana del sistema democratico rappresentativo, e definisce un concetto di vera democrazia, che poi riprende nel libro sulla Comune di Parigi, la guerra civile in Francia. Marx era un democratico radicale. Quando parla di democrazia, di dittatura del proletariato, non parla della cosa che aveva in mente Lenin, parla di un sistema in cui vige la regola della maggioranza. Tenete presente che all'epoca, metà dell'Ottocento, non esisteva la democrazia moderna, esisteva un sistema di suffragio universale, suffragio elettorale ristretto, che faceva dire a Marx che quel sistema è un sistema di dittatura della borghesia sul popolo. Apprezzava, allora, gli Stati Uniti, infatti. Non solo, ma era un teorico, era un fautore del suffragio universale. La sua idea di rivoluzione, ora qui dico una cosa che può sembrare blasfema, è il suffragio universale in un sistema capitalistico in cui la maggioranza della popolazione è costituita da proletari. Quindi la dittatura del proletariato è la dittatura della maggioranza, è la regola della maggioranza in un sistema in cui tutti i cittadini... Sono le cose da rigettare, era troppo ottimista. Engels lo segue nel famoso testamento, eccetera, sì, eccetera. Ma non c'è più bisogno della violenza, vinciamo le elezioni e le fasi. Sono d'accordo sul fatto che fosse un po' troppo ottimista. Però anch'io, come tu hai osservato prima, anch'io sono un po' troppo ottimista. Comunque sono abbastanza ottimista da poter pensare che una democrazia avanzata oggi è possibile. E nel penultimo capitolo la descrivo, indico quali sono le istituzioni fondamentali di questa democrazia, per esempio un sistema elettorale rigorosamente proporzionale, l'istituzione del vincolo di mandato, okay? I rappresentanti del popolo sono vincolati dal mandato, e il diritto di revoca del mandato da parte del popolo, per dirne soltanto tre. Ok, nella sfera economica vale lo stesso discorso. Lui ha parlato delle cooperative. Certo, la cooperativa è fondamentale in quel modello. Perché? Perché nella cooperativa le decisioni produttive le prendono i produttori. La democrazia economica è quello che Marx definiva. Cos'è, diceva a un certo punto nella guerra civile in Francia, dice, cos'è il comunismo? Lavoro libero e associato. Lavoro libero e associato, cioè un sistema in cui i lavoratori decidono autonomamente cosa produrre, come produrlo, come organizzare la produzione. Non ci sono altre motivazioni. Certo, si può aggiungere che sotto certe condizioni un sistema di cooperative, o meglio, l'impresa cooperativa è più efficiente di un'impresa capitalistica nella gestione delle informazioni. Questo lo dico, ma questo è un motivo secondario della preferenza per la cooperazione o l'autogestione. Il motivo fondamentale è che un sistema di autogestione consente ai produttori di decidere autonomamente e quindi di soddisfare i bisogni dell'autonomia. Non solo, ma siccome decidono la produzione, sono in grado anche di deciderla in modo tale da, nel limite del possibile, da autorealizzarsi in ciò che producono, e anche da creare un sistema di relazioni sociali nella fabbrica che non è quello gerarchico dell'impresa capitalistica, ma è quello della cooperazione. Guardate che anche questo è stato verificato empiricamente. In un sistema, in un'impresa cooperativa, c'è maggiore, per usare un concetto smithiano, maggiore simpatia, diciamo così, tra i lavoratori, c'è maggiore lealtà, c'è minor opportunismo, tutte cose che sono rese possibili dal fatto che i lavoratori realizzano nella cooperativa il bisogno di socialità. Non so se è chiaro, poi i dettagli potete andarveli a leggere, ma la cosa fondamentale è questa qua, una concezione dell'uomo che non è basata su presupposti filosofici, ma è basata su ricerca empirica, e che guarda caso corrisponde a quella che Marx aveva in qualche modo intuito, perché quando Marx parla dell'alienazione parla di una cosa del genere, del fatto che i lavoratori non riescono a realizzarsi in quello che producono. Ok, ora non voglio perdere altro tempo, spero di essere riuscito insieme a loro due a convincervi a leggere questo libro. Vi dico semplicemente che io su questo libro ho investito molto, ci ho lavorato per diversi anni e considero forse la cosa più importante che ho scritto nella mia vita, quindi ci tengo molto a che venga letto, ecco. Ok, adesso vediamo un po' se ci sono delle altre critiche o di altri. Vai, vai. Non so se Marco deve parlare al microfono in modo che funziona. Vieni, vieni. Se riesci, e così ti sentono anche da chi è collegato. Sì, d'accordo. Scusate. Acchiappa questo. Aspetta che non metto così, sennò rimbalza il suono. Mi riferivo al suo intervento. Mi riferisco al suo intervento, sì. Poi magari. Giusto, sì, scusa. Resto bloccato così poi. mi riferisco al suo intervento. La cosa che è successa in questo posto, che è venuto qualche anno fa, quando era Pietro Grasso, che quanti anni era? Quello di Venezia. Basso, scusate, che ha fatto una descrizione della condizione degli Stati Uniti oggi che non è molto, come dire, completamente lontana dal tipo di approccio che ha avuto lui, e parla di una società in decomposizione. L'idea che il capitalismo si stia sfaldando è un concetto molto importante. È un concetto molto importante che andrebbe preso in considerazione. Solo questo volevo dire, che i dati che lui ha dato sono molto importanti. Cioè, parlava di, non so, una stata in decomposizione, significa che sono 2 milioni di suicidi o di morti sparati all'anno. Hanno 75 milioni di persone sovrappopolate, non so, mi ricordo. Ma dei dati che, se li prendiamo in considerazione, altro che società del capitale. No, non so come muovermi. Altro che società fiorente del capitale. Questo mette in discussione poi i soggetti, diciamo così, che cosa sono i soggetti che non ci stanno in questo gioco. L'altro elemento che sarebbe da prendere in considerazione, non l'ho sentito e mi dispiace un po', è la grande dismissione. Sì, dimissione. Cioè, quanti milioni di persone stanno abbandonando il posto di lavoro? Per fare cosa? Lì non riusciamo noi a immaginarci per fare cosa. Sempre che siamo abituati a questo modello operaista, direi, in fondo, dove la centralità dei lavoratori è... Mentre questi lavoratori se ne vanno. Cosa lasciano? Cosa si portano? Cosa si inventano? Lì sarebbe interessante studiare meglio l'autonomia. Come ci si inventa la vita senza lavoro? Per noi la vita è lavoro. Chi ha un'attività produttiva è vivente. Chi non fa un cazzo è un coglione, se non, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto le filosofie orientali abbiano dato qualche segno di interesse per l'inazione. Mi fermo qua, scusate. Tocca, sei lui. Io ho solo un'osservazione da fare sulle cooperative, perché io le conosco. Facendo il sindacalista ho vissuto problemi grossi nelle cooperative, perché è teorico quello che viene detto. I soci delle cooperative non decidono niente. Questo quindi ovviamente diventa importante capire. Hai ragione su questo. Quindi era importante capire come deve essere una cooperativa e qual è il sogno di una cooperativa giusta. Quindi è un elemento importante. Poi però ricordiamoci che in Jugoslavia c'è stato il lavoro dei che poi è diventato il lavoro dei lavoratori, che però hanno avuto un problema di gestione perché gestivano i tecnici e i lavoratori non riuscivano a partecipare alla vita della produzione, eccetera. È ateorico, quindi. Ecco, questo problema che è storico e di partecipazione fallita, secondo me, così come un po' è fallita l'attività del lavoro autogestito, perché io mi ricordo quanti tortellini ho dovuto mangiare nel tempo, quando c'era la Fioravanti che era in difficoltà. Perché se non c'è una solidarietà, una visione più ampia, il discorso... In tutto questo poi c'è il problema della pubblicità, che secondo me è l'elemento che disturba in qualsiasi momento i concetti e la vita. Comunque è interessante questo confronto di posizioni diverse. Mi trovo per la prima volta in un confronto interessante ultimamente. No, soltanto una cosa, perché questo è un punto importante. Tutte le cose che tu dici le condivido e ci sono nel libro. Cioè... non basta dire cooperativa, bisogna vedere come è organizzata, così come non basta dire democrazia, bisogna dire come è costituita. Quindi è chiaro che oggi le cooperative sono dei sistemi di super sfruttamento, questo lo sappiamo, non c'è... però non necessariamente deve essere così, ecco. Lui, Leo e poi... Scusate perché faccio il paio. Non sono un esperto di marxismo, anche se ho avuto un affetto che la prima insegnante che ho avuto alle medie è la Pucci Panzieri, la moglie di Ranieri, quindi no, quando è morto... Chi era? Pucci Panzieri, Giuseppina Saia, la moglie di Panzieri, quindi, e ha lasciato un segno, per cui... Ma dal 79 al 2015 mi sono occupato di cooperative di vario genere, a livello aziendale, nazionale, in diversi settori, quindi cooperative, mutualismo, stat mutuo soccorso, partecipo ancora anche se sono in pensione. Ho comprato il libro adesso, non l'ho letto, ma mi ha incuriosito nella sua presentazione che c'erano due capitoletti o giù di lì sulla cooperazione. Ho detto, boh, andiamo a vedere, quindi parlo da profano. Da quel che ho sentito però, è propaganda questa visione della cooperazione oggi, perché il management conta, i lavoratori, ma conta nel senso che il consiglio di amministrazione, se non sei funzionale al management, li decidono i dirigenti. Io ho fatto in pensione come direttore, amministratore delegato, eccetera. Non ne potevo più. Quindi distinguiamo, perché da metà degli anni 90 giù di lì è l'unico modello gestionale che c'è nella cooperazione, l'obiettivo è ottimizzare i fattori della produzione, cioè aumentare gli utili, e non c'è un modello alternativo. I migliori dirigenti sono bocconiani. Non è sempre così nelle cooperative che contano. Io ti parlo di cooperative di costruzioni, la COP7 è andata del culo, l'ho letto l'altro giorno. Si sono impelagati sul palazzo della regione in Piemonte dei disastri, quando si andava a fare le dighe in Angola e in Mozambico. La cooperazione Lega Coop faceva dighe in Angola e in Mozambico, per dire due paesi. Oggi il palazzo della regione è costato 3 volte quelli che hanno i preventivi. Quindi sfatiamo, c'è molta comunicazione, c'è molta pubblicità, si fanno le convention negli alberghi, eccetera. Ma quando hai 80-100.000 dipendenti di fatto, quindi non apro una discussione sulla cooperazione. Dico che c'è molta narrazione e una testa, un voto, un principio, anche Grillo, una testa, un voto. Ma dove? Se sei sparso in tutta Italia e non solo, e voti i delegati che poi votano, quando arrivi a decidere? Cioè, sfatiamo, perché il danno peggiore che si può fare alla cooperazione è questo qua. Attenzione, io parlo di quelle che contano, che trattano a livello nazionale, che trattano a livello del giornale, che costruiscono, che fanno lobby. Che fanno lobby. D'altronde, Turci, presidente Lega Coop, dopo che ha fatto amministratore, già metà anni 90, perché io vedo da lì la deriva, c'è la Lega Coop, sono le prime 500 cooperative, il resto è tempo perso, detto in un congresso Lega Coop. Io non so se è una coincidenza, ma sta famosa terza via, cioè non siamo nel capitale, nello Stato, nel mercato, nello Stato, la terza via. Ma non esiste, ma non esiste. Piccolo esempio, Coop Tirreno, parlo di un po' di anni fa, che è una delle più efficienti, parliamo di consumi in questo caso, ma lì ha maggior ragione, il consumatore doveva fare la spesa e la tessera. Su 2 miliardi e 2 di produzione tipica, di fatturato, ne faceva 2,7 di raccolta finanziaria, di prestito da soci. I contratti sono scimmiottati, quelli nazionali, ma poi con il regolamento interno e via dicendo. Allora io penso che il miglior contributo sia parlare di cooperazione conoscendola. Oggi GKN ha costituito una cooperativa, penso avrete sentito parlare, no? Come la cartiera Perinoli a Torino, come tante altre, come in Argentina da 20 anni, eccetera. Quindi le cooperative sane sono quelle che nascono o cooperative giovanili, parliamo di fine metà anni 70-77, ci fu una legge nazionale, la legge giovani, da cui sono nate migliaia di cooperative che hanno fatto innovazione. Dove ti autosfruttavi, io ero uno di quelli. Se c'erano i soldi prendevi qualcosa, se no la Singer è fallita, hanno messo su una cooperativa di consumo, andavano a comprare dai produttori e vendevano. Quella era innovazione. Oggi la Coop fa come tutta la grossa distribuzione, compra la stagione i pomodori, poi l'invenduto non lo paghi. Allora, il miglior contributo, secondo me, è parlare studiando quello che è effettivamente. Ma per salvare le cooperative sane, che non contano una beata minchia, ma chi le mette su, chi ci lavora, questo lo condivido, perché si autosfrutta, ma almeno decido io. E quindi anche i numeri contano. Mentre oggi il modello è quello, il pesce grosso mangia il pesce piccolo. Da metà anni 90 in poi è un dogma, non puoi discuterlo, e conta la finanza, punto. Ho fatto l'esempio di Coop Tirreno, perché se fai 2 miliardi e 7 di prestito da soci, fai raccolta finanziaria, pur non potendolo fare perché la banca di in modo improprio, ma perché formalmente, e qui torna tutta la discussione tra il formale e il sostanziale. Grazie. Grazie a te. Leo. Innanzitutto grazie per il dibattito, perché è davvero interessante, cioè siamo in una situazione di merda con questo governo e dobbiamo in qualche modo capire che storia ci abbiamo alle spalle per poi fare e condividerla. Adesso anche teoricamente le divisioni sono notevolissime. Ho sentito parlare della Fioravanti, a quel tempo io ero alla Fargas, quindi vendevo le stufe con cui cucinevamo i tortellini e poi per radio sentivamo quelli della Coelectron, che le prime radio libere sono nate in via MacMahon. Ora, sul ragionamento sull'autogestione e sul bisogno dell'individuo di socialità, io la cosa l'ho sempre capito in un modo semplice semplice. In fabbrica, quando facevo l'operaio, il conflitto con il padrone era quotidiano e nelle lotte c'era la socializzazione. È connaturato al rapporto capitale-lavoro questa roba qua. Poi noi abbiamo fatto lotte tremende alla Fargas in quel periodo e poi abbiamo trovato un accordo, erano i tempi di Canosa, Leon, gli avvocati. La magistratura dava sempre ragione ai lavoratori in quel periodo. Allora abbiamo convinto il giudice e dice: ma scusa, perché dobbiamo fare una lotta con tutto il patrimonio che abbiamo in questa cazzo di ditta? Allora la Fargas dava stufe, cucine e caldaie a un quarto del paese, cioè eravamo il monopolio praticamente. Cioè, allora abbiamo detto, abbiamo un sacco di roba qui, facci produrre a noi, vendiamo, troviamo un altro padrone, un po' come la GKN in questi giorni, che ha dovuto cambiare idea. 4 anni, abbiamo fatto una lotta pagata. Dal punto di vista della collettività è stata un'esperienza bellissima, perché ha creato comunità, e non solo tra noi lavoratori, ha creato comunità col territorio, con gli intellettuali, Iannacci, Dario Fo, la PFM, sono venuti a fare le feste con noi, ci ricordiamo tutti. Ugualmente però, dentro al lavoro, alla catena di montaggio e allo stampaggio, c'era un manicomio, perché noi eravamo tutti esperti del taylorismo, cioè super esperti, vite per vite, fase per fase, conoscevamo tutto, però poi ti dovevi confrontare sul mercato. E allora lì c'è stato discussioni feroci e furibonde, sono durate 4 anni, e comunque siamo arrivati al punto che c'era una quota di lavoratori, soprattutto i giovani, della fabbrica, ci dicevano l'autosfruttamento, quelli di lotta continua. Poi ogni tanto qualcuno della P38 è saltato fuori e c'è stato anche un brigatista in Fargas. Nello stesso tempo però la conoscenza del processo lavorativo è stata formidabile, e una cosa abbiamo capito tutti: il carattere, e qui però veniamo alla teoria e a Marx, io poi mi sono laureato per gioco, dopo quando ci hanno licenziato ho preso a studiare, poi ho studiato pure filosofia e ho letto un po' di Capitale. Il carattere della produzione oggi è sociale, e lo è dal tempo del macchinismo, non la macchina a vapore e quindi la tecnologia, lo è perché? Perché tutto il processo che ha preparato, quello che Marx descrive nel primo libro del Capitale, prima, quando nasce il rapporto di produzione capitalistico, lo definisce sottomissione formale del lavoro al capitale, cioè si pigliavano tutti gli artigiani che c'erano e che facevano i carretti, gli aghi, le bottiglie, eccetera, e col carattere individuale del lavoro significa esattamente questo, che l'oggetto che usciva dal processo lavorativo dipendeva dal singolo lavoratore. Quando arriva il macchinismo e c'è il processo cooperativo, eccetera, questa avviene una vera e propria trasformazione antropologica nel rapporto tra l'uomo e il lavoro. Perché? Perché tutto quello che viene fatto è uguale, anche se ci sono 1000 lavoratori, l'oggetto è lo stesso, identico. Che significa? Significa che il carattere individuale della produzione è scomparso col capitalismo quando è subentrato il macchinismo. Si può retrocedere da questa roba? No. Tant'è che con il macchinismo tu arrivi all'automazione, perché è scandito Taylor, eccetera. Adesso i robot già ci sono. Quando c'è l'intelligenza artificiale succede un'altra cosa clamorosa: è il lavoro intellettuale che viene automatizzato e meccanizzato. Quando tu gli dici all'intelligenza, al chat GPT, mi scrivi su, che ne so, una cosa qualsiasi, su quell'orologio, 10 pagine, che devo fare la pubblicità, schiacci il bottone e ti arriva. Lo fanno già nei giornali, sostituisce non più il lavoro manuale, c'è la meccanizzazione del lavoro intellettuale nei giornali, nei libri, nei film. Avete in mente le lotte che hanno fatto? Allora, questa roba qua significa questo, secondo me, semplicemente. Tutti i tentativi che ci sono oggi di tornare all'individuo dal punto di vista del rapporto con la natura, perché ogni processo lavorativo dà luogo ad un oggetto che è la natura comunque trasformata o da trasformare, non c'è altro. E allora nel ricambio organico tra l'uomo e la natura non può esserci più un ritorno al carattere individuale del lavoro. C'è solo un lavoro che ha un carattere sociale. Questo carattere sociale ha dei vincoli e degli obblighi a cui dobbiamo sottostare tutti e capirli. Perché se non li capiamo, non capiamo che tutti quelli che stanno cercando di tornare, per scendere e chiudo, che vogliono adesso il sovranismo, la nazione, i recinti, ma che cazzo stanno dicendo? Cioè, ogni oggetto oggi è il risultato dell'attività di tutta quanta l'umanità, per dirla in termini estremi, filosofici proprio. E quindi tu hai una situazione nella quale il ritorno ai recinti è fuori dalla storia, sono singhiozzi temporanei di arretramento, ma non hanno strada. Allora noi da questo punto di vista, e l'individuo, certo che è un individuo che nel contesto fuori dalla società non esiste, ma noi adesso abbiamo un carattere sociale del lavoro che pone noi sulla storia. Chiudo dicendo questo, c'è un riformista che si chiama Emanuele Felice, è stato responsabile del PD, adesso scrive sul Domani. Questo ha fatto un libro, secondo me bellissimo, La conquista dei diritti, non so se ce l'hai in mente Ernesto, ed è un libro che parte da un punto di, fa proprio filosofia della storia e lo dichiara dicendo: i diritti individuali sono il presupposto dei diritti del lavoro e dei diritti dell'ambiente. L'esempio è clamoroso, è solo in Europa che abbiamo un pizzico di democrazia, in giro per il mondo c'è la democratura e c'è la democrazia illiberale, la teorizzano da Orban e tutti gli altri. Questa roba qua ci dice semplicemente che tu alle donne dell'Iran, che non possono neanche prendere il sole in faccia, che cazzo gli vai a parlare di democrazia o di lavoro? Quelli vogliono innanzitutto esistere come individui liberi e non oppressi da religioni o forme statuali che ti uccidono letteralmente, capisci? Cioè ti impediscono di essere quello che sei tu nel ricambio organico con la natura e la società, che invece è l'orizzonte. Dico tre cose veloci. La prima sull'idea di uomo in Marx, l'individuo. Effettivamente Marx, soprattutto il primo Marx, ha un'attenzione incredibile a questa dimensione e fonda un'idea di individuo diversa da quella della filosofia tradizionale, incentrata sull'idea di Gemeinwesen. Quindi l'essere dell'uomo come essere immediatamente sociale, generico e al tempo stesso individuale. Un'idea estremamente forte che fonda l'idea di una società altra nel primo Marx. Poi Marx, in quanto rivoluzionario, nel corso della sua vita le tenterà un po' tutte, anche le cose più improbabili. A un certo punto punterà sullo sviluppo del movimento operaio, che è una cosa che si è visto dove è andata a parare. Punterà sulla politica internazionale, recupererà poi alla fine l'idea di un possibile corso storico diverso da quello assunto dall'Occidente europeo. Comunque sia, questa idea è effettivamente centrale ed è, dal punto di vista filosofico, l'idea a mio avviso più forte di Marx, questa è, che poi viene approfondita sia da Rubella che da Kamat, è qualcosa di estremamente importante. Ripeto, però è uno dei tanti Marx, ma non perché Marx avesse chissà quale carattere ondivago nella sua produzione, perché i rivoluzionari cercano di agire con quello che hanno in mano, anche a costo di dire e fare il contrario di quanto hanno sostenuto 10 o 20 anni prima. Poi effettivamente la riprenderà in quella peana all'idea di rivoluzioni in atto che sono gli scritti sulla Comune di Parigi, che però non c'entrano niente con quello che Marx scriveva sei mesi prima o che scriverà successivamente. Secondo me è la maniera di cercare di pensare con le mani che è propria dei rivoluzionari, questo percorso estremamente diverso nel tempo e contraddittorio di Marx, e questo permette poi che ciascuno ci trovi quello che più gli aggradi. È difficile discutere di Marx proprio perché non è un pensatore unitario, ma è un rivoluzionario. La seconda cosa sul concetto di democrazia radicale, secondo me è un contributo molto utile, viene da Miguel Abensur, grande studioso di Saint-Just, di Hannah Arendt, di Clastres. Ecco, ti propongo di confrontartici. Miguel Abensur è stato poi il direttore della collana Critique de la Politique presso Payot, insomma una figura, quello che ha introdotto i francofortesi in Francia, insomma una figura, ahimè, scomparso pochi anni fa, comunque estremamente forte in un tentativo di fondare una critica della politica. La terza e ultima cosa è sul voto. Mi sembra che fosse Mark Twain che diceva che se votare servisse a qualcosa sarebbe vietato. Allora, in Marx effettivamente c'è l'idea di democrazia radicale, ma quello che non c'è è un'analisi per tempo dello sviluppo di sistemi politici come sistemi di assoggettamento, e quindi lo sviluppo della socialdemocrazia come istanza inizialmente di liberazione, poi fautrice della controrivoluzione quando si trattò di fare la rivoluzione. Ecco, oggi ci troviamo di fronte a questo corso successivo dei sistemi democratici che necessitano che necessita un ripensamento totale dell'agire di parte proletaria, a mio avviso. Così come l'ultimissima cosa che dico è a proposito dello sviluppo dei bisogni eudemonici, sedati, soppressi, negati sul posto di lavoro. Sul posto di lavoro la cooperazione però non è solo quella del padrone, anzi gli studi migliori e le pratiche più innovative che hanno poi fondato tutto il ciclo dell'autonomia operaia successiva hanno messo in luce come gli operai associati sviluppino una controorganizzazione del lavoro, innanzitutto per difendere le proprie esigenze vitali, ma poi ne fanno la base dell'organizzazione della lotta, della capacità di leggere l'organizzazione del lavoro a contrario per farne un vettore di organizzazione e di, insomma, per metterlo in culo al padrone. Ecco, questo carattere duplice della cooperazione che è stato riconosciuto nell'organizzazione fordista, eccetera, andrebbe ricercato oggi perché lì si darà la possibilità di una organizzazione di lotta sui terreni nuovi dell'organizzazione del lavoro contemporaneo. Basta. Io voglio dire solo una cosa. Di qua. Anch'io volevo dire una cosa. No, era solo un suggerimento, solo questo, perché credo che l'ora sia tarda, quindi non mi prolungo. Ma sulla questione grandi dimissioni, quello è un fenomeno che merita di essere analizzato, ma sul quale si sono dette molte cose discutibili, anche perché legate a un momento particolare con diversità nelle varie fasi. Cioè, questo si è verificato dopo la pandemia negli Stati Uniti, per esempio, dove è uscita fuori con grande pompa questa cosa che la gente usciva dal mercato del lavoro. Mentre da un lato è vero quello che ha scritto Sergio Bologna, purtroppo in un commento che era solo nella pagina locale di Repubblica Genova, si tratta di un fenomeno che ovviamente è un segnale della situazione invivibile in certi lavori, ma che sia davvero un'uscita dal mercato del lavoro è discutibile. Vi dicevo, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, durante la pandemia, ti arrivavano a casa degli assegni sostanziosi, per cui uscivi, cioè era conveniente uscire dal mercato del lavoro. La fase della pandemia ha creato evidentemente una situazione particolare anche in termini di aspettative dei soggetti, possibilità e così via. Però lo stesso sito che ha lanciato il nome Grandi Dimissioni, che era di entrata nella sua, dopo un anno ha detto, l'ha rinominato non Grandi Dimissioni ma Grande Rimescolamento, Great Reshuffling. Allora, la cosa che vi consiglio per quelli che sono su internet e su Facebook, ma la cosa è raggiungibile perché questo post è gratuito, di cercare una che si chiama Giovanna Vertova, che ha scritto una rassegna di alcuni studi sulle grandi dimissioni di una statunitense che si chiama Sara Jaffe, il perché il lavoro non mi ama, di una italiana che si chiama Francesca Coin e di un due francesi, purtroppo il libro è in francese, Coutreau e Coralie Perez, Ridonare senso al lavoro. Sono libri molto diversi che danno quadri diversi. Lei fa una rassegna critica eccellente, e non lo dico solo perché è mia moglie. Io sono un po' colpevole perché lei m'ha odiato per 2 mesi e mezzo, perché io gli ho detto devi farla, devi leggere questi libri e così via. Quindi vi dà perlomeno un'idea. È uscito su una rivista di politiche sociali, ma è accessibile gratis. Lei ha messo le immagini, se no le scrivete giovanna.vertova@gmail.com, che è anche il mio indirizzo, riccardo.belofiore@gmail.com. Secondo, visto che si è parlato di Marx, il genere, questo, quello, c'è un bel libro, secondo me, non perfetto, cioè ci avrei molte cose da dire, ma il migliore degli ultimi 50 anni probabilmente su Marx, di un tedesco che si chiama Michael Heinrich, H-E-I-N-R-I-C-H, che è stato tradotto in italiano e pubblicato da Pi Greco, la collana di Pi Greco, Mimesis Filo Rosso. È un gran bel libro e non lo dico perché l'ho curato io con Stefano Breda. E comunque lui verrà a Milano fra un paio di settimane. Purtroppo ovviamente lui parla in inglese, quindi ci saranno tante cose in streaming perché viene in giro per una settimana. E lui tratta questa questione dell'ente umano generico, eccetera. Lui ritiene che sia una fase superata dal Marx maturo. Qui segue Althusser. La mia personale posizione è che chi guardi alla sequenza storica di Marx è vero che c'è una frattura nel 45-46. Non c'è dubbio. I continuisti hanno torto, i discontinuisti hanno ragione. Ma se si fa con Marx l'operazione che spesso secondo me si deve fare, di leggere a ritroso, cioè si leggono le opere di Marx a partire dal Capitale e andando indietro, si scopre che i problemi che lui analizzava con questo concetto di ente naturale generico, Gattungswesen vuol dire essenza di genere, eccetera, sono riformulati in altro modo, fuori dal linguaggio dell'alienazione, ma tieniti dentro il linguaggio del carattere di feticcio e del feticismo, che non sono la stessa cosa. La questione delle cooperative, secondo me, sta in quel modo, nel senso che tu sei determinato, anche se gestissi tu la cooperativa, da un meccanismo che ti domina come domina tutti nella concorrenza. Dopodiché Marx aveva un giudizio positivo delle cooperative, per una ragione molto semplice, che si adatta alla GKN e così via, perché possono essere parte di quella dinamica del conflitto che apre la questione di una diversa gestione. Ma l'apertura di un problema non è la soluzione di quel problema. Poi vi dico che in realtà, quello che mi sa qui dalla sinistra, cioè Ernesto Screparti, visto che questi problemi lui li conosce, lui una soluzione ce l'ha. Io non ci credo, ma quella soluzione non è stupida. Cioè lui dice: costituzionalizziamo e quindi vincoliamo via Costituzione una struttura gerarchica nelle cooperative, per cui chi deve decidere sono i lavoratori, poi a scalare il management ha anche lui la possibilità di essere revocato e licenziato e va su un vincolo di mandato e così via. Io sono quello del bicchiere non mezzo pieno, molto meno, quindi non ci credo, però... Chiudiamo. Sì, no, no, volevo dire delle robe, ma voglio lasciare la parola finale a Ernesto. Quindi, siccome stasera sono cinematografico, faccio solo una citazione. Volevo dire due robe, sono d'accordo in parte con Riccardo, ma insomma sarebbe lungo. Cito solo Sergio Leone, che diceva: ho tre certezze. Il marxismo, avevo tre certezze. Il marxismo, la missione di liberazione del cinema e la dinamite. Me ne è rimasta solo una, la dinamite. James Coburn. No, io vedo che siete già tutti stanchi, non voglio tediarvi con repliche e contro repliche, quindi non dirò nulla, salvo una cosa: comprate il libro, leggetelo e fatelo leggere. Basta così. Sì, lo conosco, no?